Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Cervicale o tunnel carpale? Buongiorno, stamattina vi do il benvenuto con questa domandina, tra l'altro fa anche rima. Ho invitato il dottor Marco Sassi, buongiorno. Buongiorno. È un neurochirurgo, lavora al Galeazzi di Milano. Dottor Sassi, perché questa domanda? Perché questa domanda ce la facciamo quando al mattino avvertiamo un certo formicolio, insomma ci svegliamo con le mani che prudono. Sì. A volte le mani che prudono significa un'altra cosa, che qualcuno ci ha fatto venire i nervi, mi prudono le mani, tirai una sberla, invece ci si trattiene. Invece a volte, soprattutto al mattino, dopo il riposo notturno, ci confrontiamo con il formicolio, e dato che ormai siamo diventati tutti dottori, il rimando alle due possibili cause viene immediato. Sarà la cervicale? Sarà mica il tunnel carpale? Anche il mio collega ne soffre, è un problema del mouse. Dottore, di prima mattina ci aiuti un po' a fare chiarezza, anche perché so che lei ci suggerisce solitamente degli esercizi, dei piccoli test per fare una sorta di autodiagnosi. Non che vogliamo sostituirci a lei, ma insomma vogliamo capirci un pochino di più. Beh, allora è chiaro che poi la terminologia viene utilizzata per cercare di farsi capire, e sotto la parola formicoli in realtà rientra tutto un insieme di sintomi. Per cui spilli. Sì, più che parlare proprio di formicoli in sé, parleremo di tutte quelle alterazioni della sensibilità che abbiamo sul collo, le spalle o le braccia o le mani. Ma a volte che fanno il pari anche con delle alterazioni di forza, proprio ci svegliamo con le mani intorpidite o che funzionano peggio o che all'inizio non ci ascoltano molto e non eseguono i compiti che gli diamo da svolgere. Diciamo un braccio o una mano o ambedue le braccia addormentate. Oppure... è importante capire dove sono localizzati i disturbi, è importante capire per quanto tempo durano questi disturbi. Per questo l'ho invitato, dottore. Certo. Allora noi siamo pronti. Carta e penna, insomma. Allora, in linea di massima la cosa fondamentale è capire, il primo importante discrimine è se è presente anche un'alterazione di forza. Quindi potranno bruciarvi, dar fastidio, formicolare, ok, ma l'importante è che la forza rimanga sempre perfettamente normale e che la velocità di esecuzione delle dita e delle mani nei compiti più banali della vita di tutti i giorni sia conservata. Quindi la interrompo un attimo, sì. Il primo test, la prima richiesta che lei ci fa la è... la forza. Va bene, quindi ci siamo svegliati, sentiamo il braccio o la mano addormentate o entrambe, tranquilli, andiamo a vedere, magari prendiamo la tazzina del caffè piuttosto che il bicchiere d'acqua, se lo afferriamo senza nessun problema, la forza c'è, anche la presa, stiamo tranquilli, passa. Sì, in linea di massima la faccia molto semplice. I pazienti sono perfettamente in grado di discriminare se l'alterazione è meccanica oppure se c'è sotto qualcos'altro, cioè è un cosiddetto dito a scatto. Sì. Altra patologia che, oltre al tunnel carpale che giustamente citavi tu prima, è da prendere in considerazione. Spesso il paziente se la autodiagnostica perché il dito scatta, cioè c'è effettivamente un'alterazione meccanica nel movimento del dito. Lei ci sta dicendo che siamo diventati molto bravi. Sì, in realtà non sono così contrario al paziente che si informa, certo, e si fa una sua idea. Bene, sono contenta anch'io. Allora, ecco. In linea di massima la prima cosa da valutare, come però giustamente dicevi tu, escluse le cose che ci richiederebbero di andare immediatamente dal medico, come dicevo prima, è la possibilità che siamo di fronte a una patologia da tunnel carpale. Quindi il tunnel carpale di per sé non è una patologia, è una zona anatomica dove il nervo passa dall'avambraccio attraverso il polso, entra nella mano e lì passa sotto un vero e proprio tunnel formato da una fascia come un polsino che abbiamo sotto pelle e che tiene in ordine tutti i tendini, i legamenti e il muscolo e i muscoli, insomma, del polso. Sostanzialmente questo nervo, con l'artrosi, con l'usura, con la predisposizione che abbiamo geneticamente determinata, può finire per essere schiacciato. Un nervo schiacciato naturalmente ci crea, come dicevamo all'inizio, delle formiche, delle parestesie sulla mano, ma soprattutto queste parestesie, se stiamo parlando di tunnel carpale, saranno localizzate alle prime due, tre dita e al palmo. Quindi la prima cosa che vediamo è questa. Il calo di forza, la presenza o l'assenza della carne, dei muscoli che stanno tra osso e l'altro nella mano, i cosiddetti muscoli interossei. Tutte queste cose ci danno un'idea abbastanza chiara se il nostro nervo mediano, che è poi quello interessato al tunnel carpale, è schiacciato o no nel suo passaggio nel polso. La fermo ancora, dottor Sassi, perché questa della mano scarna mi piace. Sì. Ci impresti il suo occhio clinico, perché di questa prima mattina possiamo osservare le nostre mani. Se sì. avvertiamo questi dolori, dolorini, formicolie, mancanza di forza, guardiamo le nostre mani. Sì, prima di tutto la carne che sta, che è il primo muscolo interosseo, nell'osso dell'indice e nell'osso del pollice, tra le due ossa. Quella specie di ciccetta. Di ciccetta che sì. è facilmente palpabile sostanzialmente, sì. pinzandola con l'altra mano. Sì. Quello lì è un interosseo. Naturalmente se lì noi vediamo che la pelle cresce, che è come se fosse un sacchetto vuoto per intenderci, sì. qualcosa non funziona. In alternativa spingiamo con l'altra mano sotto il palmo della mano che stiamo esaminando. Sì. Dovremmo vedere comparire delle gobbette tra osso e osso. Quelli sono gli altri interossei, quelli che stanno all'interno della mano in profondità. È chiaro che se noi spingiamo e vediamo soltanto le ossa e non compaiono i muscoli, per intenderci, quello può essere un'indicazione di un iniziale danno. Vedi che anche la ciccetta delle mani dice la sua. Sì. Spingiamo con il pollice dell'altra mano sul polso che stiamo valutando, oppure picchiettiamo con due dita sul polso che stiamo valutando. Se saltiamo, che ci fa sì. male, se sentiamo, se vediamo compaiono le formiche o il dolore, soprattutto al pollice e all'indice, sarà indice del fatto che il nervo è sofferente. Quindi così abbiamo escluso l'ipotesi che si tratti del tunnel carpale. Se invece tunnel carpale che fare? E dobbiamo salire e andare a vedere più in alto. È possibile che il problema a questo punto parta dal collo. Cerchiamo di ricordarci di tenere presente in quale posizione dormiamo e se questo influenza il dolore o le formiche che sentiamo al mattino. Dobbiamo raccogliere dati anche eventualmente da dare al medico. E un'altra prova che possiamo fare, sempre autovalutandoci, è premere con le dita della mano sulla clavicola, al di sopra della clavicola. La clavicola è quell'osso che sporge orizzontale, che sta lateralmente allo sterno e che collega con la spalla. È un ossicino sporgente sopra il pettorale, per intenderci, si vede molto bene. Spingendo forte, come se volessimo cercare di andare dietro la clavicola, stiamo in effetti comprimendo i nervi che passano dal collo e si infilano nel braccio per andare a muovere il braccio. Questo determina delle formiche nella mano? E questa è un'altra informazione da valutare, perché spesso e volentieri una contrattura cervicale, un'irritazione dei nervi anche a livello delle vertebre, quindi determinerà la comparsa di formiche sulla mano spingendo sulla clavicola, diciamo così, che stiamo valutando, la clavicola incriminata. Quindi con queste semplici mosse lei è riuscito a darci le indicazioni per rispondere alla domanda iniziale, cervicale o tunnel carpale, così abbiamo delle indicazioni. Tra l'altro al tunnel carpale abbiamo dedicato delle puntate intere proprio con un suo collega, un chirurgo della mano. Bene. Ma è anche naturalmente un campo in cui interviene il neurochirurgo, dottor Sassi. L'intervento del tunnel carpale risolve il problema o c'è il rischio che nelle persone che sono predisposte il problema ritorni anche dopo l'intervento? L'intervento essenzialmente è la sezione di questo tendine, che, di questo legamento che si spessisce e va a schiacciare sul nervo. Se la sezione è completa e quindi viene fatta approfonditamente, è molto difficile che si ripresenti la patologia. Viceversa, a volte il nervo potrebbe essere talmente danneggiato da, anche se operato correttamente, non determinare un miglioramento significativo dopo l'intervento. Quindi, proprio perché l'intervento è una cosa veloce, in anestesia locale, che si fa con ben pochi disagi per il paziente, è forse vale la pena di muoversi in maniera un po' più veloce. Però in generale è piuttosto difficile che il problema si ripresenti dopo che l'intervento è stato ben condotto. Ne soffrono più le donne degli uomini, è vero? Ma in realtà devo dire che io ho visto più o meno il 50%. Bene, dipende molto dalla qualità genetica del tessuto del paziente. Sono pazienti che hanno di solito una pelle spessa che ahimè predispone a questo sviluppo di patologie, o che fanno un'attività lavorativa che predispone a questo tipo di patologie. Dottor Sassi, abbiamo parlato di cervicale, di tunnel carpale e il discorso naturalmente va al nostro collo. Ecco, al mattino noi sappiamo che abbiamo la testa sul collo, ma dove sta il nostro collo? E forse proprio la posizione del nostro collo è all'origine di tanti problemi, contratture, non dico proprio un dolore che è invalidante, ma sicuramente una sorta di sensazione dolorosa che rende tutti i movimenti un pochino più difficili. Certo. Possiamo occuparci anche del nostro collo? Abbiamo sistemato le mani che formicolano, diamo una mano anche a questo collo che porta il peso della nostra testa. Cominciamo a guardarci allo specchio, sì, tanto di fronte quanto di profilo, e cominciamo a cercare di valutare se queste clavicole di cui parlavamo prima sono allineate oppure se il nostro collo parte dovendo pareggiare uno sbilancio che sta più in basso, perché molto spesso i problemi di collo in realtà derivano da un problema del tratto lombare. Quindi la prima cosa da guardare è se siamo pari a quel livello. E poi lateralmente, nel senso che comunque una contrattura cervicale è abbastanza facilmente apprezzabile, se ci mettiamo di fianco, magari chiediamo al nostro partner o a un membro della famiglia di guardare e di capire se rispetto al piano delle spalle il collo tende ad andare in avanti, perché indietro è praticamente impossibile, non esistono patologie in estensione del tratto cervicale. È più il collo che... Sì, la nostra tendenza da un punto di vista di baricentro è quello di cadere verso l'avanti, è per quello che è importante perdere peso, perché il peso ci spinge verso l'avanti. Ecco, lei è veramente in diverse occasioni in cui è intervenuto ha sempre sottolineato perdere peso, anche il collo ci guadagna? Eh beh certo, perché comunque noi alla fine dobbiamo stare dritti, e se questa cosa avviene con un debito, diciamo così, perché dobbiamo tenere dritta la pancia che ci spinge verso l'avanti, anche il collo alla fine ne fa le spese. Mi tolgo una curiosità prima di salutarci, lei è un medico agopuntore, sì. Per dolori al collo e quindi cervicale o anche per il tunnel carpale o i formicoli, la perdita di forza e di presa, gli aghi sono efficaci? C'è un'evidenza? Un 50% dei miei pazienti hanno problemi alla cervicale e i risultati sia nella mia esperienza che secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità sono indubitabilmente positivi e favorevoli, sì. Allora, contro gli spilli un ago ci salverà? La buttiamo così? E per salutare il prossimo ospite invece dovrei dire un respiro ci salverà. Saluto Mike Maric. Ciao Mike. Ciao Nico, buongiorno a tutti. È in linea con noi. Perché dico questo? Perché Mike è intanto è un medico, ma è soprattutto campione di apnea ed esperto di tecniche di respirazione che, come sapete se mi seguite al mattino e nei miei video, lui racconta nel suo libro La scienza del respiro, edito da Ballardi, vero Mike? Sì. Esattamente, sì. Sai perché al mattino sono un po' arrugginita? Forse un respiro mi salverà? un respiro ci può aiutare a togliere un po' il mal di schiena, mal di collo tutti ecco, i giorni. Dai, allora noi siamo pronti. Poi intanto in questa settimana mi piacerebbe risentirti proprio per così dare un po' il via a una giornata con tutta l'energia necessaria, e tu ci insegnerai un esercizio per lavorare proprio sul respiro. Nel frattempo chissà se tu inventi una respirazione per diventare più brillanti, intelligenti, pronti per snebbiare la mente. Tu ridi, ma io ne avrei bisogno. Allora, ci proviamo. Dai, io mi fido e mi affido, sono un caso difficile. Ora Nico, proviamo questo esercizio. Dai. È un esercizio che suggerisco a tutti quelli che passano tante ore in macchina, seduti in ufficio, dove la respirazione può aiutare sul mal di schiena e mal di collo. Devi sapere che il diaframma è il muscolo più importante della respirazione, e il diaframma si inserisce posteriormente sulla colonna vertebrale a livello di lombare 3, 4 e 5 a destra e 3, 4 alla sua sinistra. Quindi avere un buon controllo respiratorio può aiutare a diminuire le contratture parassite e anche, se vogliamo, a migliorare alcuni aspetti proprio posturali e via dicendo. Allora, l'esercizio che voglio suggerirti oggi è molto molto semplice. Sì. Ogni 50 minuti di lavoro facciamo questo piccolo esercizio in cui andiamo a staccare la schiena dall'appoggio della sedia e quindi ci spostiamo un pochettino più in avanti, cioè portiamo i glutei verso il limite esterno della sedia. Le gambe appoggiate 90 gradi, l'angolo tra cosce e polpacci, divarichiamo leggermente le ginocchia, portiamo le mani non all'interno delle cosce ma all'esterno, sì, come se fossero proprio a penzoloni, e a questo punto da una posizione corretta della schiena, quindi dritta con le spalle rilassate, dopo aver preso un buon carico inspiratorio, andiamo ad espirare, buttar fuori lentamente tutta l'aria, portando la testa tra le ginocchia a penzoloni, quindi ci pieghiamo e assecondiamo pian pianino nostra espirazione col piegamento della schiena in avanti, aumentiamo la curvatura, in realtà andiamo a aumentare l'estensione della curva lombare, e portando il viso verso il pavimento, sì, proprio in caduta libera gravitazionale. A peso morto, mi raccomando, non incragnatevi sul pavimento, ma praticamente quello che tu ci insegni a fare è un sacco che prima si riempie e poi si svuota. Esatto, lasciati andare, buon respiro. Grazie a Mike Maric, grazie a voi, ci sentiamo a mezzogiorno. Buona giornata da Nicoletta.